Abbiamo tutti un punto debole, un lato poco confortevole, un gradino sdrucciolevole, ma abbiamo tutti una parte fragile. Un giorno da dimenticare, una notte da cancellare, un segreto da sotterrare, un sospetto da dissipare. Abbiamo tutti almeno un vizio, un piede nel precipizio e qualche tipo di pregiudizio, un antenato nel santo uffizio. Abbiamo tutti una carta clonata, una camicia che si è macchiata, una rete ingiustamente annullata, una sconfitta immeritata. Con l'ottimismo si fa la storia e si vedono i risultati. La gloria è sempre transitoria, dissero i ghigliottinati, e ci prepariamo al peggio, immobili nel parcheggio, fantasticando una nuova esistenza, un nuovo punto di ripartenza. E abbiamo tutti un cugino a Londra, che di lavoro fa l'uomo ombra, per una multinazionale, per la decrescita globale. E il cugino che vive a Londra sta sulla nave che non affonda, perché ci sono opportunità quasi ai confini con la realtà. E ha imparato a considerare il lato positivo delle cose, un naufragio in alto mare porta ad isole meravigliose, col passaggio di una cometa ha maturato la convinzione che il surriscaldamento del pianeta è meglio di una glaciazione. E abbiamo tutti un gatto nero, l'inconfessabile pensiero, un terapista troppo sincero, un'autostima vicina a zero. Abbiamo tutti un sottotenente in un incubo ricorrente, cibo guasto nel microonde, l'elettricista che non risponde. Abbiamo tutti un tallone d'Achille, un nemico che fa scintille, un dio romantico disperso da qualche parte nell'universo. Abbiamo tutti molti bisogni, poche speranze, parecchi sogni, un ansiolitico nel taschino ed un vicino che fa casino. I furbi crescono come funghi e ci hanno avvelenati, sic transit gloria mundi, dissero i porporati, e ci prepariamo al peggio, immobili nel calzeggio, fantasticando miraggi in vista, nuovo punto di riconquista. Il cugino che vive a Londra ha una fidanzata bionda, eterobatica virtuale che fa sesso internazionale. Il cugino che vive a Londra sta sulla nave che non affonda e beve birra con il liquore al pub di Jack lo squartatore. Viaggia nella metropolitana, 7 giorni la settimana, e legge libri solo per la trama, e ascolta musica anglicana. E lui ha visto David Bowie volare, e una volta anche la regina, torna in Italia sempre per votare, ma scheda bianca così fa prima.